Da oggi, martedì 1 marzo fino a domenica 6 marzo, ERT dedica una rassegna di spettacoli e incontri al centenario dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. Siamo qui per parlarne con Ascanio Celestini, che sarà uno dei protagonisti di questa rassegna. Buongiorno Ascanio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi. Allora Ascanio, sarai appunto, come appena detto, protagonista di più appuntamenti legati al centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, quindi le volevo chiedere qual è il rapporto che ha con Pierpaolo Pasolini e tutta la sua storia e la sua arte. Beh, allora diciamo che per questo spettacolo Museo Pasolini io, come dire, sono partito da una frase, da una definizione di Vincenzo Cerami, che è stato uno scrittore, uno sceneggiatore, però è stato anche un allievo, nel senso proprio uno scolaro di Pierpaolo Pasolini. Quando Pasolini arrivò a Roma nel 1950, andò ad insegnare in una piccola scuola a Ciampino, appena fuori Roma, e uno dei suoi scolari era per l'appunto il giovanissimo Vincenzo Cerami. E Vincenzo diceva: se noi prendiamo tutte le opere di Pasolini, dalla prima poesia che scrisse a 7 anni fino all'ultimo film, Salò, 120 giornate di Sodoma, se le prendiamo tutte e le disponiamo, le ordiniamo secondo cronologia, noi avremo il disegno, l'immagine del nostro paese, dell'Italia dalla fine della seconda guerra mondiale, dal ventennio fascista fino almeno agli anni 70. Ecco, e io ho fatto questo, come dire, ho preso le opere e gli eventi della vita di Pierpaolo Pasolini e li ho come disposti su una linea in ordine cronologico accanto alla cronologia invece del Novecento, del secolo scorso, con tutti i suoi eventi, diciamo, e anche con i suoi punti di vista, con le sue tragedie, che visto quello che sta succedendo insomma, in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, sembra che non sia un secolo proprio, come dire, terminato, chiuso, che faccia parte del passato. Ecco, ho costruito questa sorta di gioco per cui lo spettatore, quando si trova davanti a questa storia che io racconto in teatro, c'è una storia che procede in ordine cronologico, un po' passando un po' da, come dire, attraverso lo sguardo di Pasolini e attraverso, come dire, l'insieme degli eventi del nostro recentissimo passato. Si parlerà anche di cinema pasoliniano, quindi si andrà un po' a vedere Pasolini veramente a 360 gradi, e questo invece lo farete venerdì 4 marzo al cinema Lumiere. Come sarà parlare anche appunto in modi diversi di Pasolini? Ma io non credo che, cioè a me non sembra, ma in realtà poi quello che diceva lui, insomma, che il cinema di Pierpaolo Pasolini sia un corpo a parte rispetto a quello che ha fatto con la sua scrittura, con gli articoli. Pierpaolo Pasolini nel 1942 pubblica un libro che è Poesia a Casarza, che è un libro di poesie scritto in una lingua che Pasolini conosce appena, insomma, perché Pasolini nasce a Bologna e studia a Bologna e in Friuli ci va soprattutto per le vacanze estive, però poi decide di scrivere un libro di poesie in una lingua, il friulano, che appunto che capisce appena, che comprende appena, decide di scrivere in una lingua che non è la sua, e poi nel 1950, quando arriva a Roma, incomincia a scrivere in un'altra lingua che di nuovo non è la sua, che è il romano parlato nelle periferie, il romano contaminato da parole delle persone che arrivavano a Roma in quei giorni, gli sfollati della guerra dal sud. Per cui quando nel 61 fa il suo primo film, di nuovo sceglie attraverso il cinema di parlare una lingua che non conosce a tanti livelli, non la conosce tecnicamente, perché lo racconta lui che i primi giorni sul set cinematografico non sapeva che cosa fosse un'ottica, insomma, per cui gli mancavano proprio gli strumenti, gli mancava proprio l'alfabeto del cinema. Ecco, questo è, come dire, un tratto, ma neanche proprio, insomma, uno sguardo linguistico di Pierpaolo Pasolini assolutamente moderno, anzi, come dire, molto avanti anche oggi, che parliamo di identità, insomma, questa parolaccia che crea confini, insomma. Ecco, lui invece ci parlava di qualcosa di molto diverso, cioè della possibilità, dell'opportunità, forse anche dell'obbligo di prendere il punto di vista dell'altro, lo sguardo dell'altro, e la lingua anche dell'altro. E la scelta del cinema questo fu. Perfetto, io innanzitutto Scagno ti ringrazio per averci dato veramente un altro sguardo appunto su Pierpaolo Pasolini, e ricordo ancora una volta che insomma sarai qua a Bologna per tanti diversi appuntamenti, sempre tutti dedicati a Pasolini, a partire dal Teatro Arena del Sole. Quindi grazie ancora Scagno Celestini. Grazie a voi.